Boogie NDO. La tribù viene. Questa sera muove la tribù di M2O. Gigi D'Agostino. Hit me no wireless, I agree. Questa sera suona Gigi D'Agostino. Questi dischi, perché possiate aiutarmi nel combattere una battaglia. One of a kind. Boy can understand it. This a one is but just like a bandit. Shit, brand new style and uptake. Watch this, I don't know if he jump on this. Huffy puff the granite, and the girl them style is tight like bandage. We get out of order with a whole lip of style that cross your border. With them a flow like water. Any sound test, squand down 6 feet under. Shake up on the mic center. Who no blaze up the fire when we enter? Yo. Yeah. You hold a damn show. Dance hard, blaze and go. Look the girl with the shape and look. Raise your foot. Put your hand in the sky. And you know if you bump and grind. Grind to style. Girl, they on the front line. Make it more say the older than mine. We tell them. Who no pump up the sound one time. Someone I want love, I can't. a one of a kind. I'm all right, searching for the right girl, loving up on the girl inside. I'm all right, yes, we have a lot of time to spend your people with you, but then nice, how them so nice. Can't get these eyes, in a darkness, you put a wind first right. All those lights, smile and shine bright. In a darkness, all in a daylight. Them no type of girl, you put a crafty ocean. Choose my wooden skin, soft like lotion. Look at the flips when they move in motion. And then we're only done, need promotion. The whole of them fat, the whole of them fat. In a tight skirt, in a latest frock. Gravity, gravity, hella, she run the top. Come on, tell me, hex, when you step on this back. The whole of them show. Dance all blaze and cook. Look the girl with the shape and look. Raise your foot. Put your hand in the sky, you have to do the bump and grind. Grind the sky, grind them on the front line. We can do what's in the whole of them mind. We tell them, you know, pump up the sound one time. Cause this is one of one of a kind. Dance all blaze and put the big girl with the shape and look. Raise your foot. Put your hand in the sky, you have to do the bump and grind. Grind the sky, grind them on the front line. We can do what's in the whole of them mind. We tell them, you know, pump up the sound one time. Cause when I want off, I can't. Someone I want to know about time. Thank you. Tribe. Questa sera muove la tribù di M2O. Gigi D'Agostino. La tribù viene. Let's go. Girl, I see you do what you do. Go on, girl, and act a fool. There's no need to play it cool. Everybody jack your body. Everybody jack your body. Everybody jack your body. Everybody. Leave it fucked up sounding just like that. Like that, yeah. Allo stato puro. La tribù di M2O. La tribù di M2O. Gigi D'Agostino.

questa sera suona Gigi D'Agostino. Thank you. Tribe. Questa sera muove la tribù di M2O. Gigi D'Agostino. Tribe. Questa sera si muove la tribù di M2O. Gigi D'Agostino. Tell me what to do, tell me what to say. Don't you wanna help me? Tell me what to do, help me find a way. If I was not me, I would hate you too, just like you do. I don't need to need you. Tell me what to do, tell me what to say. You can never win.

sera suona Gigi D'Agostino. M2O. Dove scaricare I Wanna Be, il videoclip con tutti i DJ di M2O. M2O, musica allo stato puro. Su CD, in tutti i negozi di dischi, a 9,90€. Allora, ripeti con me. Mamma. No, si dice mamma. Mamma. Tuo figlio cresce in fretta. Inizia a pensare subito al suo futuro. Alle Poste trovi i libretti per minori, la soluzione ideale dove mettere i risparmi, con zero spese di apertura e di gestione. Emessi da Cassa Depositi e Prestiti, garantiti dallo Stato e collocati in esclusiva da Poste Italiane. Prima dell'apertura leggere il foglio informativo. Poste Italiane. M2O presenta Rimini Disco Network. Vieni a Rimini, per te soggiorno in hotel, ingresso nei parchi divertimento e nelle più famose discoteche della Riviera. Altro Mondo, Cocorico, Villa delle Rose, Gotha, Prince, Carnaby, Embassy, Baia Imperiale, Blow Up. In un esclusivo pacchetto settimanale o weekend a partire da 89 euro. M2O è con Rimini Disco Network. Divertimento allo stato puro. Info 347-8273-092 o riminidisconetwork.it. Nome? Maria Chiara. Deborah, con l'H. Quanti anni hai? 16 e mezzo. 15. Meglio Baudelaire o Ungaretti? Difficile fare un paragone. E dove giocano? Lo slip o Perizoma? Dipende. Si può dire niente alla radio? Tradiresti il tuo ragazzo? No, e comunque non te lo direi. Oh, ci stai a provare? Un aggettivo per descriverti. Riflessiva. Ingrassata. Fai un urlo. Ah, dai. Il gelato che preferisci. Maxi Bon. Maxi Bon. Due gusti, un solo gelato. Granella e stracciatella. Maxi Bon. Due gusti, meglio che one. Squadra Z presenta Dani J. L'impazienza e l'istinto che mi muove. Luca Z. Insieme, dal vivo, spettacolo più DJ set nella tua discoteca. Chiama 339-644-5232. M2 Online. Commissione veloce. Ciao M2O, sono una siracusana, voglio salutare mio papà che ad agosto fatta e... Ciao M2O, saluti a tutti i siracusani, saluta anche mio papà. E tutti i miei... Ciao M2O, saluti a tutti i miei cugini. Ciao M2O. Ciao M2O, sono una siracusana. Ciao. Buon compleanno Franci, ti amo. 800-800-626 M2O. Centrale, qui Urbano Persichetti, che faccio? Ho ricapitolo? Se attivi un numero Team, paghi 20 euro e con Team uno per tutti. Parli e mandi messaggi e foto a un centesimo per tutta l'estate. Centrale, io mi sono attivato. Con Adriana. Stasera cenetta c'è muo. Ma Centrale, ma che vuoi sapere? Ma fatti tua. Vieni con me. Attivabile fino all'8 agosto 2005. Valida fino al 30 settembre 2005 per chiamate verso Team. Con scatto alla risposta di 15 centesimi. E SMS, MMS verso tutti. Per info su condizioni e copertura chiama il 119 o vai su team.it. Durex Love presenta Frasi da non dire a una ragazza, numero K321. Ehi, stasera c'ho la casa libera. Ehi là, come sei carina, ma dove vai tutta vestita? Ehi, ma lo sai che in piedi stai benissimo? Ma in orizzontale secondo me stai troppo meglio. Durex Love, il profilattico facile e pratico che ti fa sentire sicuro di te, anche troppo. È un dispositivo medico CE, leggere le istruzioni per l'uso. La vodka che volevi ci presenta lezioni di sesso con Ivano e la sua fidanzata. Oggi faremo un'esperienza exotic, il Kama Sutra. Ecco la mia fidanzata e Tony che mostrano la posa del coltellino svizzero. Ivano? Sì. Certo che la sua fidanzata è bella snodata, eh? Vero, me lo dicono tutti. Grazie a Ivano, alla sua fidanzata e a Keglevich, la vodka che volevi. Il piercing non me lo tolgo! Fino al 31 luglio Yamaha incentiva l'indipendenza e raddoppia l'eco incentivo statale a 500 euro su Aerox, BVS e tutta la gamma 50cc e finanziamento a tasso zero senza anticipo con carta Yamaha. Libera! Dan 0 TAI 17,66%, fogli informativi nelle concessionarie. M2O. Musica allo stato puro. Drive il fuoco dentro me. questa sera muove la tribù di M2O, Gigi D'Agostino. I'm here, I'm thinking what you say.